palla ovale. Nuovo buon pomeriggio da Carlo Genta, ripeto quanto ho detto prima nel GR, informazione di servizio, se volete oggi programma ridotto nelle dimensioni, quindi fino alle 17.30 per poi lasciare spazio allo speciale economia, nelle dimensioni ma spero non nei contenuti, ripeto. Partiamo subito dal rugby e dalla cronaca di questi minuti sui campi dopo l'anticipo senza storia di ieri nel Super 10, cioè Calvisano che ha battuto 42-0 il Gran Parma. Il big match del pomeriggio è quello dell'altra parmigiana, l'Overmac contro Viadana, ed è partita equilibratissima 30-27 in questo momento. Quindi c'è Rovigo in vantaggio 17-10 sull'Almaviva Capitolina, è un momento di parità 9-9 tra futura Park Roma, rivelazione, neopromosse, rivelazione fin qui del campionato, quindi parità 9-9 curiosamente anche tra Benetton Treviso e Carrera Petrarca Padova. Io saluto subito Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Anticipo senza storia, dicevo prima, quello di ieri, che è diventata l'abitudine televisiva di questa stagione, no? Del venerdì alle 19.30, partita sì, non bellissima. Un'abitudine un po' discutibile, se molto, vogliamo. Molto discutibile. Un anticipo che ha rilanciato il Cammi Calvisano, ha reso evidenti comunque le difficoltà del Gran Parma che... Anche con un po' di fortuna sabato scorso è riuscito a battere in extremis il Rovigo, e sono 4 punti importanti perché questo Gran per adesso non sembra molto assestato. Il Calvisano invece ha giocato bene e senza grande pressione ha potuto mettere in mostra la sua giovanissima linea dei tre quarti che ha dato veramente spettacolo. Oggi, come ricordavi Carlo, la partita più importante per la classifica, almeno al momento attuale, è proprio questo Overmac Cariparma Montepaschi Viadana. Finora nel primo tempo 3 mete per il Montepaschi e 2 per l'Overmac, primo tempo finito 24-23, l'Overmac però ha segnato una meta con Pedersen al primo minuto del secondo tempo e si è portato per la prima volta in testa. L'altro scontro naturalmente da tenere presente è sempre questa classica Treviso-Padova, Benetton contro Carrera Petrarca, col Petrarca un po' a sorpresa in vantaggio sul campo dei trevigiani 12-9, però partita apertissima così come quella di Padova. 12-9 proprio in questo momento, e tra una settimana Giacomo cominciano le coppe europee. E tra una settimana cominciano le coppe e cominceranno presumibilmente, non vogliamo essere pessimisti d'ufficio, di solito sì, siamo ottimisti d'ufficio, ma cominceranno forse anche le lamentele, cominceranno i ragionamenti che facciamo tutti gli anni a proposito di questo gap che non si colma tra le nostre realtà e quelle delle altre nazioni sì, che però in alcuni casi mettono in campo anche delle selezioni, il caso dell'Irlanda, certo, dell'Alles, della Scozia, ed è il caso che piacerebbe vedere anche dalle nostre parti. Ne abbiamo discusso tanto e torneremo a farlo. Quali stelle arrivano quest'anno a farsi vedere sui nostri campi, Giacomo? Ma per quanto riguarda, tu dici l'arrivo di stelle europee. Stelle europee, squadre e giocatori, che cosa porteranno le coppe europee sui nostri campi? Ma guarda, tanto per cominciare possiamo parlare naturalmente dell'arrivo di Dan Carter a Perpignan, ecco, questa è naturalmente la cosa più eclatante, anche se il Benetton Treviso esordisce proprio con il Perpignan e qui sì, ci sarà una bella diretta già venerdì, sì, poi ci saranno altre partite su Sky anche nel corso del fine settimana, ricordiamo già che ci siamo, Perpignan Benetton Treviso venerdì sera e poi vedremo ancora Calvisano Cardiff sabato pomeriggio e ancora un Tolosa Bath domenica sì, pomeriggio. Io direi che Carter è il numero uno, lo vedremo arrivare e naturalmente ci saranno altri giocatori, c'è il mediano di mischia del Sudafrica Classens, c'è l'ex mediano d'apertura sempre del Sudafrica Hogard e Van der Linde, il pilone che hanno firmato per Leicester. Vedremo David Lyons e Rocky Elson, due assi dell'Australia, uno col Clanelli Scarlets e l'altro con gli irlandesi dell'Ulster. Insomma, sicuramente ci sono questi grandi nomi, non c'è la calata che abbiamo registrato l'anno scorso, però è chiaro, l'anno scorso era l'anno immediatamente successivo ai mondiali e quindi cominciava un nuovo ciclo e molti giocatori, ricordiamo tanti sudafricani, tanti neozelandesi sono venuti a giocare in Europa, ricordiamo anche i grandi che smettono, ecco, ha smesso Lawrence Dall'Aglio, potremmo aprire più di un capitolo, ha smesso Anthony Foley che è stato a lungo capitano del Munster, il Munster ricordiamo detentore dell'Heineken Cup e che ha il record delle presenze in Heineken Cup, 86 partite in Heineken Cup, e ha smesso anche un altro irlandese, questa volta dell'Irlanda del Nord, David Humphrey. Non vorrei che smettesse anche Johnny Wilkinson, che si è fatto male di nuovo. Una carriera incredibile quella di Wilkinson. Tra picchi di gioco e baratri legati ad infortuni lunghissimi. Ma guarda, sì, diciamo che a questo punto probabilmente ha superato anche delle cose più dure e dei periodi più lunghi di inattività. Al di là degli infortuni è un giocatore ancora relativamente giovane, ha 29 anni e quindi non possiamo che augurargli di riprendersi, mentre sul fronte degli addii registriamo anche questo terzetto di giocatori francesi, uno in realtà di origine sudafricana, cioè Pieter de Villiers, un altro pilone di lunghissimo corso, Christian Califano, che addirittura pensa aveva giocato la prima partita della prima Heineken Cup nel 1995, è arrivato a giocare fino a quest'anno e poi e ha smesso e smette anche Christophe Dominici, questo folletto francese che fece impazzire la Nuova Zelanda ad esempio nel 99 nelle semifinali mondiali, possiamo dirlo così senza naturalmente voler togliere niente alla sua formazione francese, giocatore di padre corso e madre sarda. Noi diciamo che a livello di sangue qualche fuoriclasse abbiamo importato tanti argentini, ma a livello di sangue abbiamo dato un buon contributo, basta pensare a David Campese, padre è lo stesso Lawrence Dall'Aglio che tu citavi prima, insomma. Ah sì, certo, il papà di Lawrence Dall'Aglio è nato in provincia di Reggio Emilia, ha vissuto a Torino e come ricorderai lo avevamo anche intervistato, una persona molto brillante, vive in Inghilterra da più di 40 anni e vanta un italiano che tanti nostri connazionali vorrebbero poter esibire. Senti, e poi Possiamo fermarci un attimo che c'è il traffico, poi torniamo a parlarne e soprattutto, visto che li hai citati di sfuggita, io voglio tornare sull'argomento mondiali perché credo sia la notizia, anzi sono certo sia la notizia della settimana, questa volontà di soprattutto del presidente Dondi, ma della fiera intera, di portare i mondiali in Italia nel 2015 o nel 2019. Palla ovale. Giro di aggiornamento dai campi della pallovale della nostra giornata di campionato di Super 10. Overmac Cari Parma ora in svantaggio con Viadana 34-30 per Viadana, Rovigo 20, Capitolina 10, sempre 9-9 tra Futura Park Roma e Casino Venezia, mentre il Petrarca Padova si porta a condurre a Treviso sul campo del Benetton 15-9. C'era Giacomo Bagnasco che stava dicendo qualcosa, forse voleva finire il discorso. Ma guarda, io sono d'accordo con te sull'affrontare subito il discorso Coppa del Mondo e magari proseguire, visto che si tratta di un argomento che coinvolge largamente la federazione, proseguire magari parlando un attimo anche del primo Consiglio federale dell'era Dondi 4. Consiglio federale, perché Giacomo, in questi giorni siamo alle prese, discutiamo continuamente dei problemi del basket, delle quote italiane, della federazione commissariata, di mille grane, di un campionato che non parte, doveva partire domani, come sapete non partirà domani, di un giudizio, quello su Capo d'Orlando ancora in sospeso, eccetera eccetera. Ecco, il primo Consiglio federale ha detto che aumenta ancora il numero degli italiani di formazione nel nostro rugby. Nella prossima stagione saranno almeno 13 nel campionato Super 10, mentre nel campionato italiano di Serie A gli italiani a referto dovranno essere 18, quindi si aumenta di una unità almeno. Consiglio federale che ha detto che insomma, la Lega Rugby deve ricompattarsi perché così non esiste, no? Sette componenti della sette club che attualmente compongono il progetto della Lega Italiana Rugby, mentre ci sono tre club fuoriusciti, manca il numero legale e la FIRA ha detto per quest'anno gestite ancora le cose, proveremo a svolgere opere di mediazione, però è chiaro che così non si può andare avanti. Esatto, sì, effettivamente quello della Lega è un impasse che dura da un po' di tempo, erano uscite Treviso e Calvisano, probabilmente anche per disaccordi proprio sulle prospettive del rugby, sul tentativo, ecco, forse di queste due grandi società, di queste due grandi realtà del rugby italiano, di andare, diciamo, un po' per conto loro in Europa. Ecco, c'era la volontà di provare a scandagliare la Celtic League per vedere se si poteva arrivare come singoli club a disputare questo torneo, e questo mi sembra uno dei motivi che possono aver indotto queste due squadre a lasciare la Lega, ma sicuramente ce ne possono essere altri. Si è aggiunta con motivazioni non perfettamente chiare, a mio avviso, anche la Capitolina, quindi è mancato quello che si può considerare il numero legale, e la Lega effettivamente con solo 7 squadre rappresentate su 10 non poteva più andare avanti, non poteva più avere un riconoscimento ufficiale. Speriamo però che qualcosa cambi, perché a mio avviso uno sport importante in una nazione con un campionato che deve essere importante per forza non può fare a meno di una Lega. Certo. C'è poi da dire anche al di là del discorso degli italiani di formazione che aumenteranno obbligatoriamente, ricordiamo che comunque già da quest'anno ci sono dei premi in denaro per chi schiererà o metterà almeno a referto tra i 22 giocatori tra campo e panchina un numero superiore al minimo consentito. Sì. E poi c'è questa novità che riguarda le seconde squadre. Come sai, Carlo, ci sono diverse formazioni, parecchie formazioni del Super 10 ma anche della Serie A, che hanno iscritto ai campionati minori le loro seconde squadre, e queste seconde squadre ormai sono arrivate in determinati casi al top, cioè sì, il Benetton, il Viadana, eccetera, sono già in Serie A, che corrisponde alla seconda divisione. Sì, sì. Si creavano delle situazioni strane, a volte anche non del tutto piacevoli, perché magari la seconda squadra del Calvisano o del Benetton, mettiamo, affrontava con un numero più o meno consistente di giocatori di livello elevato a tre squadre, il risultato era un campionato che poteva essere un po' falsato, e quindi si torna a fare quello che un tempo si chiamava il campionato riserve. Ci sarà un campionato apposito per le squadre cadette, anche questa è una novità che si è resa necessaria. L'ultima novità riguarda invece i vicepresidenti, che erano già stati eletti ieri, e sono Barzoni, Sacca e Zanandrea, con Antonino Sacca che è il vicepresidente vicario. Sì. Diciamo una carica un po' più alta rispetto agli altri due. Giacomo, per chiudere, argomento mondiali, notizia della settimana, rimaniamo in corsa, l'8 di maggio dovrà essere presentato un ampio progetto dettagliato, rimaniamo in corsa, vogliamo rimanere in corsa per i mondiali del 2015 o quelli del 2019. Le pretendenti sono di altissimo livello: Australia, Irlanda, Giappone, Scozia, Sudafrica e Galles per queste due edizioni. L'Inghilterra vuole i mondiali del 2015, la Russia quelli del 2019, e come ha titolato qualcuno è corsa all'oro, perché il mondiale di rugby, la Francia ha dimostrato ampiamente, è un prodotto che richiede un grande investimento iniziale, però è in grado, ormai è un evento che vale questi soldi, insomma. Quante chance abbiamo secondo te? Guarda, io so che il presidente Dondi ha detto fin da subito: noi presentiamo questa candidatura, ce la metteremo tutta, sappiamo che però da soli non ce la possiamo fare. È chiaro che c'è bisogno di un forte interessamento, di un forte coinvolgimento di sponsor, ma anche delle istituzioni. Ricordiamo che la Francia, che sicuramente è innervata in maniera molto più capillare per quanto riguarda il rugby, però ha giocato in Francia tutte le partite del mondiale, si sono giocate nei più grandi stadi del calcio, quindi certo, già questo è un sostegno che dovrebbe arrivare a livello di CONI, ma anche probabilmente a livello governativo, per avere delle speranze. L'Italia io penso sia un paese molto appetibile anche da un punto di vista turistico. Abbiamo visto che in Francia c'è stata una media di 50.000 spettatori a partita, che sì, in Italia forse sarebbe difficile ripetere. Ma soprattutto sono stati venduti il 95% dei biglietti esatto, disponibili in Francia. Naturale, sì, si è arrivati a vendere tutti questi biglietti, si è arrivati a vedere stadi pieni per partite che oggettivamente non avevano un grandissimo appeal, però a quel punto vuol dire che si era creato l'evento e quindi sì. Era importante esserci, era importante vivere dentro a questa manifestazione. È stato un grande successo. Se l'Italia farà un gioco di squadra, si potrebbe effettivamente arrivare anche a questo risultato. Ripeto, da un punto di vista turistico siamo messi bene perché tutti verrebbero volentieri. Da un punto di vista della credibilità del nostro rugby, della nostra nazionale, sicuramente è stata in buona parte acquisita. Certo, dobbiamo considerare che il Giappone nel 2000 avrebbe voluto ospitare la competizione già nel 2011 ed è stato battuto per poco dalla Nuova Zelanda. E quindi qualcosa è presumibile. Qualcosa potrebbe prendere il Giappone. C'è chi dice, di solito c'è un'alternanza Europa, resto del mondo, quindi dovrebbero tornare in Europa quelli del 2015 e potrebbero essere potrebbero essere anche i nostri. Potrebbero essere anche i nostri, oppure in partnership. Giacomo, ne parliamo oggi siamo stretti, ne parliamo presumibilmente col presidente Dondi in una delle prossime puntate, perché appunto l'8 maggio c'è da presentare questo dossier e vogliamo capire a che punto siamo. Io saluto e ringrazio Giacomo Bagnasco. Domani mattina nel GR Sport troverete il suo servizio con i risultati di questa giornata che stiamo vivendo del Super 10. Adesso ci restano un paio di minuti per prima di darvi un altro giro di aggiornamenti sulla Serie B di calcio in divenire, vorrei parlarvi un istante di un esperimento che finalmente domani riuscirò a vedere grazie a Sky, che fa l'americana, porta le telecamere negli spogliatoi, questa volta del calcio giovanile. Paolo Ghisoni, buonasera. Oh, sì, buon pomeriggio. Direi ce l'abbiamo fatta, sì. Dovremmo dire in collaborazione con la Lega. In realtà non è stato così, nel senso che le squadre di calcio più importanti ci hanno dato una grossa mano e grossa disponibilità. Insomma, la Lega era un po' reticente per questa sorta di sacralità abbastanza fittizia che c'è in un campionato, scusate, non lo spogliatoio. Però domani si entra, si sentono gli allenatori parlare, si vede cosa scrivono sulla lavagna, tutto quanto, no? Tutto. Nel prepartita ci sarà un minutino in uno spogliatoio, chiaramente domani è Sampdoria-Atalanta, Supercoppa italiana, quindi spogliatoio Sampdoria, spogliatoio Atalanta, poi nell'intervallo andremo probabilmente come scelta nello spogliatoio della squadra in difficoltà, perché l'idea è proprio questa. Insomma, abbiamo visto questa settimana Mourinho, qualche giocatore ha detto ci scusiamo con il nostro mister perché nell'intervallo di Inter Werder ci aveva chiesto di chiudere la partita e ci aveva dato delle indicazioni e non siamo riusciti a captarlo. Ecco, molte volte non si sanno quali siano queste indicazioni, quindi non si sa mai se la responsabilità è provare nell'incapacità del giocatore oppure nell'allenatore che non è stato abbastanza chiaro. Ecco, questo campionato primavera non dovrebbe più avvenire, perché se tu entri nello spogliatoio della squadra in difficoltà o comunque che ha qualcosa da registrare, l'allenatore ti dice fai questo e quest'altro e poi non lo fanno, si comincia a capire qualcosa in più. Paolo, a che ora è l'appuntamento, che così poi domani sera ne parliamo? 11:15 prepartita, quindi dalle 11:15 alle 11:30 si vede questo esperimento. Poi c'è l'intervallo e poi c'è il post partita, perché chiaramente assisteremo anche alla premiazione, quindi facciamo servizio completo. E domani sera ne parleremo insieme. Volentieri. Intanto ti ringrazio. Grazie a Paolo Ghisoni. Appunto a domani, anche per capire come sarà andato questo esperimento delle telecamere negli spogliatoi, molto curioso. Oggi ci salutiamo qui, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunta in regia. Appuntamento domani dalle 17 alle 19 con A Tempo di Sport.